La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, bentornati a questa puntata della Quota Rosa, una puntata in cui si parla di assenteismo, si parla di pianisti, insomma, i deputati e i senatori sono da sempre e sono sempre di più nell'occhio del ciclone, o almeno nel mirino di giornalisti, opinione pubblica, normali cittadini. Perché? Perché da una parte ogni tanto si denunciano i pianisti, che sono i deputati che votano anche per il collega assente, ma anche perché alle volte vengono accusati giustamente di assenteismo, ma alle volte anche ingiustamente. Il caso di Federica Mogherini del Partito Democratico, onorevole deputata appunto eletta nel partito di Veltroni, è un po' questo. In rete mi accusavano di assenteismo e lei ha risposto alle accuse maschiliste. Cioè, lei ha un blog, iniziamo giusto? Buongiorno onorevole. Io ho un blog e sono su Facebook, che sono due strumenti che utilizzo non soltanto per rendere conto agli elettori, ma anche effettivamente per essere in contatto con persone che conosco, che mi conoscono, anche a volte amici, e più in generale, insomma, con il mondo là fuori dal palazzo, ecco. E a un certo punto un commentatore del blog le scrive: cerchi di non frignare con questa storia delle malattie. Dunque, è successo questo in realtà. Mi piacerebbe mettere un po' in ordine le cose perché credo che sia utile per capire davvero. Io in realtà ho scritto sul mio blog della mia gravidanza. Era un modo per condividere una gioia e difficilmente avrei potuto scrivere di quello che facevo, delle mie giornate, delle mie idee, delle mie iniziative o non iniziative senza condividere questo. Negli stessi giorni, qualche giorno dopo, sono uscite le statistiche sulle presenze in aula e qualcuno ha fatto 2+2, ma devo dire la verità, 2 o 3, non sono stata linciata dal popolo dei blog, ecco, 2 o 3 hanno detto: beh, forse una donna in Parlamento incinta, perché è giusto che prenda la maternità, che allattia, forse dovrebbe dimettersi per lasciare il posto a qualcuno di più presente in aula. Ed io ho risposto che mi sembrava, quindi questo è successo quando io, diciamo così, ancora non avevo perso il bambino. Io ho risposto dicendo: credo che sia un valore aggiunto avere in Parlamento una donna che vive la maternità, la gravidanza prima. Io oltretutto ho già una figlia, quindi sono già mamma, perché sono più vicina in questo modo, credo, ai problemi quotidiani di tante donne e anche di tanti uomini, perché avere un figlio riguarda anche papà, ricordiamocelo. E argomentavo con il fatto che credo che i parlamentari e le parlamentari debbano avere esattamente gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori altrove, che quindi gli debba essere consentito, diciamo, di essere in maternità se la maternità è a rischio, come era in questo caso, e soprattutto argomentavo il fatto che purtroppo non abbiamo un indicatore efficiente, efficace dell'attività parlamentare. Qui credo che stia il punto, cioè la presenza in aula è un indicatore valido per contare quante volte uno preme un bottone, ma purtroppo, per fortuna, il lavoro parlamentare non si esaurisce lì. Esiste l'iniziativa legislativa, esiste l'attività in commissione, esiste il rapporto con il mondo appunto fuori dal palazzo, il provare a portare dentro il palazzo alcune idee o alcune esigenze che invece non ci arrivano, cioè è un lavoro molto complesso, e quindi limitare l'osservazione ad un singolo indicatore purtroppo a volte crea delle deviazioni, diciamo che nel mio caso c'è stato un mix tra un sentimento anticasta ed un sentimento di, diciamo, l'idea che la maternità riguardi le donne e non gli uomini, diciamo, il fatto di fare papà, e che in fondo l'avere un figlio e seguirlo come madre sia incompatibile con il lavorare, che questo sia in Parlamento, che in fondo sia anche altrove. Isabella Bertolini, lei è del PDL, questo sessismo nei confronti anche di una deputata che appunto sta in una gravidanza a rischio, come abbiamo visto, perché poi purtroppo non si è conclusa per l'onorevole Mogherini, questo sessismo lei lo riscontra anche all'interno di Montecitorio? Assolutamente sì, io trovo che questo episodio sia l'apice di tutta una serie di situazioni che ci sono. Tra l'altro approfitto di questa occasione per esprimere la mia solidarietà alla collega Mogherini. Credo che il qualunquismo e la caccia alla casta abbia fatto di tutto un'erba un fascio, coinvolgendo una situazione vergognosa non solo per le donne che fanno politica, ma credo per tutte le donne italiane. Arrivare ad attaccare una persona che per motivi di maternità, di una gravidanza difficile, si assenta dal suo posto di lavoro, perché diciamoci la verità, per noi parlamentari essere in Parlamento è il luogo di lavoro, e non trovare per questo una giustificazione, mentre sappiamo che in realtà questo è concesso a tutte, giustamente, dalle leggi italiane, a tutte le donne che hanno un lavoro, soprattutto una professione dipendente, credo che sia vergognoso, che dimostri il fatto che oggi c'è un qualunquismo e una cattiveria nei confronti della classe politica, in questo caso particolarmente delle donne, che noi dobbiamo assolutamente condannare. Rispetto a questo dobbiamo anche trovare un sistema in qualche modo per difenderci. È assurdo che dobbiamo essere qui a giustificarci, o che l'onorevole Mogherini abbia dovuto comunque in qualche modo giustificarsi. Condivido con lei il fatto che non è solo la presenza parlamentare a pigiare un bottone che dimostra la qualità o la quantità di lavoro che un politico può esercitare. Purtroppo oggi però si viene giudicati solo per questo. Dispiace vedere che una donna è come sempre più fragile e è più facilmente attaccabile. Io credo che gli episodi di attacco alle donne in questo caso sono stati, direi, eclatanti, di una volgarità estrema, però ci sono tutti i giorni, non vedo perché noi dobbiamo continuamente giustificarci anche in Parlamento per come siamo vestite, se siamo belle, se siamo giovani, se siamo magre, se siamo truccate. Questo credo che sia emblematico il caso della ministra Carfagna, che ha subito degli attacchi indegni, vergognosi. Il fatto di essere giovane e bella è per lei comunque un ostacolo a riuscire a dimostrare invece le sue capacità, e questo avviene ogni giorno, e difficilmente gli uomini, anche i politici in Parlamento, aiutano le donne a difenderle, fanno corpo con loro. Noi oggi combattiamo ancora per portare più donne alla politica, per avvicinare più donne alla politica, e dovremmo farlo valorizzando le loro competenze, le loro capacità, dando loro nuove opportunità, e invece ci fermiamo di fronte a una volgarità di questo livello. Quindi credo che siamo alla fine del 2008, è molto preoccupante che in Italia si parli di questo. Ecco, onorevole Bertolini, però è stato il ministro Brunetta, ministro del governo, che lei appoggia ovviamente, a porre il problema dell'assenteismo. Abbiamo visto come possiamo, perché mi sembra che nel caso dell'onorevole Mogherini ci sia anche una voglia sicuramente, no, che è venuta dal governo di centrodestra, di cominciare a dire: allora, se una persona, un deputato o comunque un impiegato pubblico, ma anche poi privato, no, perché la cosa si estenderà probabilmente, deve però a un certo punto fare il suo dovere. Com'è possibile, allora, non si rischia che con i provvedimenti decisi dal ministro Brunetta sugli assenteisti, cioè, si vada in un'esagerazione? Ma guardi, io credo che i provvedimenti del ministro Brunetta siano assolutamente da appoggiare e molto validi, lo dimostrano le statistiche rispetto al problema dell'assenteismo che c'è, perché è inutile che lo neghiamo, tra i dipendenti pubblici, e le ultime statistiche dimostrano che attraverso questi provvedimenti effettivamente le assenze sono di molto calate. Io credo che però dobbiamo stare molto attenti anche qui a non fare di tutto un'erba un fascio. Attenzione alle assenze, giustamente, scusate il gioco di parole, giustificate, e invece ai furbi che ci sono però in tutti i settori, certamente non solo nell'ambito pubblico. Quindi io credo che non si possa pensare che questo attacco all'onorevole Mogherini derivi da questi provvedimenti o dalla caccia all'assenteista. Io credo che piuttosto gli attacchi all'onorevole Mogherini derivano dal fatto che oggi i politici sono visti come coloro che rubano i soldi dello Stato, i fannulloni che non fanno niente, e il modo per contrastare questa situazione è valorizzare al meglio il loro lavoro. Vorrei portare un altro esempio, se me lo consente. Sono state pubblicate queste classifiche, dove evidentemente è rientrata anche l'onorevole Mogherini, dei più assenteisti o dei meno assenteisti, no? Quindi risultano i più presenti o i meno presenti. Tra i più presenti c'è in aula il presidente Bindi, il vicepresidente della Camera, che però in aula non c'è praticamente mai, perché è giustamente giustificata, perché è sempre in missione per svolgere il suo ruolo di vicepresidente. Allora voglio dire che molto spesso questi termini di valutazione non sono giusti. Porto un ulteriore esempio: la mia collega di partito, l'onorevole Micaela Biancofiore, è stata candidata il mese scorso alle elezioni regionali a Bolzano. ha avuto un risultato personale straordinario, di questo ne sono felice, perché è una donna con migliaia di preferenze ottenute sul suo nome e naturalmente però ha fatto la campagna elettorale in Alto Adige ed è risultata molto assente in Parlamento. Secondo me stava facendo e svolgendo comunque il suo ruolo politico, e certo, su tutti i giornali è passata come un assenteista. La quota rosa. Ecco, onorevole Mogherini, abbiamo sentito anche Isabella Bertolini del Popolo della Libertà che dice appunto stiamo attenti perché poi non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Lei si sente una vittima dei provvedimenti del ministro Brunetta oppure pensa che sia stato proprio... Sinceramente io credo, credo che sia necessario mettere un po' le cose a posto. Innanzitutto io non mi sento una vittima e penso che siano ben altre le persone, le donne ma anche gli uomini che sono vittime. Pensiamo semplicemente al fatto che se quelle stesse osservazioni fossero state rivolte dal proprio capo in un luogo magari di lavoro pubblico ad una donna che lavora e magari se la gravidanza si fosse conclusa felicemente, cosa che sinceramente auguro a tutte le donne, probabilmente quelle accuse di assenteismo, di essere una fannullona avrebbero portato magari a delle conseguenze anche rilevanti, cioè ci sono donne che perdono il lavoro per avere dei figli o delle donne che sono costrette a perdere dei figli per tenere il lavoro. Questi sono i veri drammi e queste sono le vere vittime. Ecco, lei, scusi, lei era stata avvertita che doveva stare un po' a riposo. Non parliamo del mio caso personale, perché questa non è una vicenda personale. No, però è importante perché è una questione che riguarda milioni di donne e di uomini. Ma infatti per questo un bambino riguarda anche il papà. Ma a parte questo, onorevole Mogherini, io le dico perché molto spesso i medici avvertono prima e consigliano di stare a casa. Allora poi viene fuori, come lei dice, la classica cosa del capo ufficio che dice ah vabbè, ma voi donne appena rimanete incinta subito vi fate mettere a casa. È ovvio, io ero assente con un certificato medico, quindi è ovvio, io ho avuto già una figlia nella precedente gravidanza, ho lavorato. Comunque non parliamo di questo, il punto è che sia... sulla vicenda fannulloni carne da macello, sia sulla vicenda antipolitica, sia sulla vicenda, diciamo così, tra virgolette, discriminazione delle donne che aspettano un bambino, ci sono delle cose sulle quali io credo il Parlamento debba lavorare. Allora, senza fare polemiche, proviamo a lavorare in modo costruttivo e positivo su questo. A me farebbe molto piacere se la maggioranza si rendesse disponibile in questo senso. Primo, l'idea, i provvedimenti del ministro Brunetta sono alcuni condivisibili ed altri meno. L'idea però che passi la cultura della caccia al fannullone, come in questo caso dimostra che esistono certamente delle persone che lavorano poco, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato forse meno, ma esistono anche dei validi motivi che devono essere pubblicamente riconosciuti innanzitutto dalla politica, perché altrimenti monta appunto quel clima di caccia alle streghe che non vale soltanto per la politica ma vale per quei lavoratori che magari appunto lavorano molto anche nel pubblico impiego ma che per il motivo che può essere una maternità difficile, può essere una paternità dopo che è nato un bambino, può essere una malattia, può essere un lutto personale, si assentano dal lavoro, creare questo clima di caccia alle streghe rispetto al pubblico impiego, ricordiamo che anche noi in qualche modo siamo pubblico impiego, credo che sia negativo perché aumenta il livello di violenza nella quale ci troviamo a vivere e a lavorare. Secondo, sulla questione dell'antipolitica, non è che l'antipolitica nasce dal nulla, nasce dal fatto che purtroppo il giorno dopo le elezioni non si riesce a muovere di un millimetro la questione del rendere più efficace, più trasparente e eliminare i privilegi di cui noi stessi godiamo, diciamocelo ed agiamo in questo senso. Ora, il Presidente Fini ha fatto una proposta giusta che noi del PD abbiamo sostenuto in pieno. Io personalmente credo che sia anzi addirittura insufficiente, come quella del controllare che nessuno voti per il proprio vicino di banco in aula. Queste famose impronte digitali. Esatto, facciamolo. Allora, è assurdo ed è, diciamo così, diminuisce la nostra credibilità, no? Dire c'è l'antipolitica, siamo vittime dell'antipolitica e poi non fare nulla per incentivare i cittadini ad avere fiducia nella politica. Le faccio un esempio. Noi riceviamo un compenso mensile molto alto. Quasi la metà di questo compenso sarebbe destinato al lavoro parlamentare, il contatto con i cittadini, con il territorio, eccetera. Bene, se noi spendiamo questi soldi per lavorare effettivamente, quindi aprire un ufficio, avere dei collaboratori, pagargli contributi e via dicendo, fare delle iniziative, è un conto, e quindi più, quasi la metà del nostro compenso viene speso effettivamente per il lavoro. Se noi non lo facciamo, ci teniamo quei soldi e li spendiamo per farci le vacanze alle Bahamas piuttosto che altro. Le sembra giusto una situazione del genere? In tutti gli altri paesi civili, i soldi che il parlamentare dovrebbe spendere per il proprio lavoro, laddove non sono, o sono, diciamo così, resi in servizi, quindi io non ho i soldi per assumere qualcuno, ma ho direttamente il Parlamento che mi fornisce una segreteria, vi dicendo, oppure sono da rendicontare. Introduciamo una misura di questo genere. Queste sono le cose che rendono, che restituiscono la fiducia nella politica ai cittadini e diciamo così sminano le basi dell'antipolitica. Se noi non facciamo nulla e ci lamentiamo semplicemente che siamo vittime dell'antipolitica, non siamo credibili, anzi sinceramente credo che passiamo dalla parte del torto. Terza cosa, questo governo purtroppo ha fatto una serie di passi indietro sui diritti delle donne in particolare e dei genitori, oltre al chiacchierare sulla difesa della famiglia, che sono molto gravi e che di nuovo alimentano, tendono ad alimentare quella cultura che fa pensare che la donna sta a casa a fare figli e l'uomo lavora. Oltretutto Berlusconi lo ha detto ripetutamente, credo che sinceramente si dovrebbe fare un po' più di autocoscienza su questo, perché se si dice le donne stanno a casa e lavorano e gli uomini fanno i figli e gli uomini lavorano, è chiaro che poi il risultato è questo, cioè è che si pensa immediatamente la donna sta a casa e lavoro, a lavoro di casa, di cura, dei figli, e invece gli uomini stanno in ufficio. Onorevole, sì, perché in particolare io credo che la soluzione sia non solo come sempre l'investimento negli asili nido, ma introdurre una cosa semplicissima che esiste in quasi tutti i paesi occidentali, che è il congedo di paternità obbligatorio, che i padri siano incentivati a lasciare il lavoro per un periodo che può essere di 10 giorni, un mese, 2 mesi, che non sia trasferibile alla moglie, per condividere effettivamente il lavoro di cura di un figlio, che oltretutto non è soltanto un alleggerimento del lavoro delle donne, ma è anche un piacere per gli uomini, e forse crescerebbero dei figli un po' più equilibrati, un po' più felici, un po' più umanamente coltivati, e forse avremo anche meno episodi di bullismo man mano che crescono. Allora, onorevole Bertolini ha molto da rispondere all'onorevole Mogherini. Prima di tutto la proposta, che questa potrebbe essere accolta, un congedo di paternità obbligatorio. Ma guarda, io credo che intanto non è assolutamente vero che il governo Berlusconi fa politiche che siano contro le donne, anzi stiamo cercando di incentivare, ci sono anche proposte pendenti e mi auguro che su queste potremo lavorare insieme a livello non solo governativo ma parlamentare, sulla possibilità per le donne invece nel mondo del lavoro di continuare ad avere più aiuti e più sostegni, quindi sicuramente attraverso servizi sociali, perché io trovo allucinante che siamo ancora qui a discutere che una donna debba scegliere tra il lavoro e la maternità, quindi necessità di dare dei servizi davvero adeguati e che possano consentire alle donne di continuare a lavorare ed essere madri felici. Ecco, aiuti concreti alle famiglie. La questione del congedo di paternità obbligatorio, io credo che nulla si possa in qualche modo obbligare a fare. Oggi ci sono delle leggi che consentono giustamente anche ai mariti ai padri di prendere il congedo di paternità. Ma sappiamo il che problema, non lo fanno no, perché l'uomo lavora, me, guadagna di più generalmente. È anche molto culturale. Cioè, se noi non continuiamo a lavorare per cercare di valorizzare il ruolo delle donne nella società, nel lavoro, nella famiglia, nella politica, mi permetto di dire, nelle istituzioni, perché secondo me noi stiamo facendo dei passi indietro invece che dei passi in avanti, credo che il problema vero anche con le nuove generazioni sia questo, quindi cambiare anche culturalmente la mentalità. Non è accettabile che il problema dei figli debba essere un problema a carico ancora solo delle donne. Quindi benissimo, discutiamo di questo e mi auguro e penso che questo governo con le proprie azioni stia lavorando su questo. L'altra tematica relativa ai pianisti, io sono assolutamente d'accordo, peraltro vorrei ricordare che troppo spesso sono coloro che fanno i pianisti che sono messi sotto accusa, forse bisognerebbe mettere più sotto accusa quelli che vengono sostituiti dai pianisti, no? Perché trovo scorretto tutti e due, sia fare i pianisti sia soprattutto essere assenti e farsi sostituire. La proposta del presidente Fini mi trovo assolutamente concorde e mi fa piacere che sia un presidente del centrodestra che fa questa proposta. Vorrei ricordare che questo è un tema discusso da tantissime legislature, non certamente solo da questa, e a gennaio so che il presidente Fini tenterà di realizzare questa proposta, perché c'è stata l'unanimità di tutti i gruppi. Sulla questione di come spendono i soldi parlamentari, anche su questo sono d'accordo, perché io ritengo per esempio che la Camera dei Deputati e il Senato non dovrebbero fornirci degli uffici, che molto spesso i parlamentari non utilizzano, che hanno un costo enorme, ma dovrebbero semplicemente rimborsare le spese a quei parlamentari che dietro presentazione di fattura dimostrano che fanno telefonate, che usano un ufficio, che pagano una segretaria, cioè che svolgono davvero la loro attività. Perché se uno svolge davvero il suo lavoro di parlamentare a Roma e nel territorio di provenienza, questi rimborsi sono, anzi, diciamo così, spesso non sufficienti per il lavoro che deve essere svolto. Sono d'accordo sul fatto che ci sono moltissimi che invece si incamerano questi soldi e non fanno niente, ma questo è un'altra questione sulla quale i controlli li possiamo benissimo attivare ed effettuare, e tutto questo forse riavvicinerebbe di più i politici ai cittadini, che giustamente oggi invece li hanno presi a bersaglio perché non hanno troppo spesso riscontro del grande lavoro che invece moltissimi parlamentari, e qui mi sento proprio di difendere molti colleghi, in realtà svolgono 7 giorni su 7 alla settimana. Allora, io propongo che l'onorevole Mogherini e l'onorevole Bertolini si incontrino, ma tanto si incontrano tutti i giorni alla Camera quando c'è seduta, e comincino a discutere appunto di congedo di paternità, perché è vero quello che dice lei, onorevole Bertolini, ma è vero pure che molto spesso il congedo di paternità non viene preso perché gli uomini guadagnano di più e conviene che le prendano le donne. Quindi bisogna trovare un escamotage anche a questo aspetto economico delle famiglie, no? E poi abbiamo detto i rimborsi per i collaboratori, una trasparenza maggiore e soprattutto non darli automaticamente alle persone che poi non prendono collaboratori e quindi non producono anche posti di lavoro. E poi i pianisti. Allora vogliamo vedere se a gennaio finalmente si approva questo disegno di legge contro il voto possibile, no? Il possibile voto per il collega che è assente. Io ringrazio Federica Mogherini del PD e Isabella Bertolini del PDL. La quota rosa. E passiamo a parlare di moda, moda in tempi di crisi, ma insomma nell'animo femminile c'è sempre il ricorso alla moda, c'è sempre la voglia di piacere e piacersi, e dobbiamo un po' capire che cosa sta succedendo, perché ci sono molte, moltissime offerte di catene che fanno degli abiti molto carini a livello stilistico e che anche non costano troppo, e ci sono anche addirittura adesso delle lezioni di cucito. Insomma, la crisi riporta in voga le sartine, si aggiustano i vestiti, si accorciano le gonne oppure si allungano. E anche come è nata l'idea della moda? E c'è sempre stata dentro la nostra storia, la storia dell'umanità? Facciamo subito questa domanda a Carlo Belfanti, docente di storia economica all'Università di Brescia e autore Civiltà della moda, Il Mulino. Quando è nata l'idea della moda nella storia dell'umanità? Ma buongiorno, guardi, la moda non è sempre esistita, è sempre esistito un certo gusto, una certa attenzione per l'abito, ma la moda non è sempre esistita. La moda, secondo le ricerche che ho fatto io, nasce, è un prodotto del Rinascimento, del Cinquecento, dell'Italia, ma non soltanto, anche da altri paesi, ma soprattutto dell'Italia. La moda è un prodotto del Rinascimento, quando si afferma l'idea che ci si potesse vestire seguendo un proprio gusto personale, indipendentemente dalle regole che fino a quel momento erano state date dallo Stato, che collegavano in maniera molto rigida status sociale, condizione sociale e abbigliamento. Ad un certo punto ci si rende conto che, compatibilmente con i propri soldi in tasca, ognuno aveva diritto di seguire un proprio istinto, un proprio gusto, una propria tendenza. Quindi è con il secolo XVI, con il Cinquecento, o più estensivamente, se vogliamo, con l'epoca d'oro italiana del Rinascimento, che si comincia a ragionare in termini di moda. Qual è stata la figura più rivoluzionaria? È stata, come si dice sempre, Coco Chanel, o qual è stata per lei il momento in cui la moda diventa un'industria e soprattutto si massifica? Ah beh, guardi, allora diciamo che la moda, essendo caratterizzata proprio dal punto di vista fisiologico, per così dire, strutturale, dalla novità e dal cambiamento, la storia della moda è un succedersi, un susseguirsi di innovatori più o meno profondi, più o meno radicali. Diciamo che i cambiamenti più significativi nel senso ai quali le accennava, cioè industrializzazione e moda di massa, sono i tempi sono quelli dopo la Seconda Guerra Mondiale, e certamente un primo passaggio importante è quello che si caratterizza con il nome di Christian Dior, che è il primo che comincia ad utilizzare su larga scala il sistema delle licenze, cioè la possibilità di far produrre articoli commercializzati con il proprio marchio da industrie che fanno appunto produzione di massa. Quindi questo Dior è certamente un passaggio importante. L'altro cambiamento epocale è certamente, visto che siamo italiani, l'avvento dello stilismo, quindi gli anni 70, tra gli anni 70 e 80, quando appunto gli stilisti come creatori di un total look diventano appunto il momento di mediazione tra la creazione e la creatività e la produzione industriale. Quindi Dior avvia, diciamo così, una nuova fase, una nuova tendenza che gli stilisti italiani poi trasformano e consolidano in maniera definitiva. Quanto influisce l'economia sulla moda e quanto la moda sull'economia? No? C'è una vecchia battuta di borsa che si dice che quando le gonne sono corte la borsa va bene e quando le gonne si allungano la borsa va male. Ecco. Certo. Quanto... Io ormai appunto questo legame, questo collegamento non esiste più, perché ormai si portano indifferentemente gonne lunghe, gonne corte, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che certamente la moda dipende dall'economia, perché la moda di massa, come è diventata, la moda a prodotto industriale, come è diventata, come dicevamo, naturalmente non può che dipendere dalla disponibilità a spendere delle persone. Quindi l'economia certamente viene prima, diciamo così, della moda. Allora, parlando d'economia, noi sappiamo che in questo momento l'Italia ha un problema, come tutto il mondo lo sappiamo, siamo in recessione, purtroppo. Ha senso parlare di moda, di shopping con la recessione? Giulia, animatrice degli appuntamenti Invito al Cucito presso il negozio Bomba al centro di Roma. Voi che cosa fate? Rammendi, confezioni, astuzie antispreco? Ci può dare qualche input, qualche consiglio? No, allora, noi innanzitutto è nato tutto in modo molto spontaneo. Abbiamo detto proviamo a fare questi incontri come si faceva una volta, di incontrarsi intorno a un tavolo e fare qualcosa insieme, oppure ognuno per i conti suoi. E quindi abbiamo fatto questa prima lezione di cucito, che però era più uno scambio, nel senso che sono venute persone più esperte, persone meno esperte, e insieme abbiamo attaccato dei bottoni in modo un po' più, cioè, giocoso, come i bambini. Consigli per risparmiare, consigli pratici. Oggi che tutto va così veloce, in modo frenetico, no? Cioè, si sente un po' nell'aria questa esigenza di ritornare un po' alle cose fatte a mano e prendere il tempo di mettersi lì a richiamare o rammendare o attaccare un bottone. Secondo me tante donne pensano di non essere capaci. No, io personalmente proprio lo so di non essere capace. Ma non, secondo me non è vero, perché anche qui abbiamo iniziato ed erano tutte, oddio no, non ci riesco. Dopo mezz'ora andavano come dei treni, poi da lì però è nato in modo molto spontaneo un incontro sulla maglia. Quindi la volta dopo ci siamo incontrati, abbiamo fatto insieme la maglia. C'è chi non lo sapeva fare, c'è chi lo sapeva fare. Allora, noi passiamo a Valeria Morra, stilista tra le fondatrici di Ethic. Lei ha 42 anni, fa la stilista da 15 anni. A un certo punto arriva una rivoluzione dal basso. Come ci ha detto il professor Carlo Belfanti, c'è stata questa innovazione della moda italiana, dei grandi stilisti, dei nostri grandi stilisti, che sono il nostro fiore all'occhiello. E negli anni 90 arrivano anche delle catene, H&M, Ethic, insomma sono tante, che si impongono anche di servire un pubblico che ha delle disponibilità di uno stipendio normale, giusto? È stata questa la vostra rivoluzione? Buongiorno, sì, è stata questa. Dunque, noi allora non pensiamo più basso, insomma, pensiamo più che altro alla concretezza della vita reale di una donna. Io ho avuto una formazione classica, insomma, con una scuola di stilismo dove si pensava proprio sempre all'alta moda, al vestitone, a quell'immaginario lì, però ho avuto subito interesse per la concretezza, la realtà, volevo vestire le donne reali. E quindi in questo senso poi si è creata un insieme, diciamo, di interessi di persone e abbiamo deciso di tentare questa strada, cioè di proporre qualcosa di stilisticamente studiato, insomma qualcosa di interessante, però a dei prezzi comunque accettabili per una donna che lavora, che ha uno stipendio. E adesso risentite della crisi oppure? Parzialmente risentiamo della crisi, perché come diceva appunto il professore, qua è tutto interconnesso e la moda è molto, l'abbigliamento poi ancora di più è molto legato all'economia. Noi abbiamo naturalmente anche dei punti vendita diretti, quindi abbiamo sempre delle informazioni molto immediate dal mercato e da loro ci viene una richiesta di concretezza, quindi di poter pensare dei capi che possano essere versatili nell'utilizzo, quindi che si possano usare per andare a lavorare ma anche per uscire, che i prezzi siano controllati e chiaramente i materiali da usare, insomma, debbano essere di qualità in modo di consentire anche una durata nel tempo di questi capi. Voi avete degli stratagemmi, magari fate un certo tipo di colore e lo riproponete negli anni? No, stratagemmi non direi, è un lavoro veramente di cercare di ottenere il massimo con il maggior controllo dei costi, quindi costi di produzione, insomma, ecco, più che altro lo stratagemma c'è forse nel cercare di trovare delle soluzioni produttive che consentano di industrializzare i capi rendendo magari meno costose le lavorazioni, ecco. La quota rosa. E abbiamo sentito dei pareri su questa problematica, no? Di oggi la crisi c'è e le donne cercano comunque di essere belle, di vestirsi bene, di rinnovare questi abiti. Allora, Carlo Belfanti, docente di storia economica all'Università di Brescia e autore di Civiltà della Moda. Nei momenti di crisi c'è una tendenza che lei ha studiato ricorrente, o nei momenti di espansione economica magari la moda cambia, nei momenti di crisi si ritorna verso dei tagli più tradizionali? Ma diciamo che nei momenti di crisi la tendenza è quella che dicevamo prima, che anche la stilista che è intervenuta ha segnalato, cioè la moda, il sistema produttivo della moda forzatamente si deve orientare verso un orientamento produttivo, appunto, che incontri le esigenze di consumatori che hanno minori disponibilità, e questo è, io credo, la scelta che anche la stilista ha fatto, e che sono queste scelte, appunto, che si identificano con queste grandi catene che anche lei citava, H&M, Zara, eccetera eccetera, vada in questa direzione. Io penso che questi sistemi produttivi e distributivi usciranno probabilmente più forti dalla crisi, perché risolvono un problema sentito. Storicamente nel passato una soluzione che oggi mi sembra difficilmente praticabile, ma che spesso è stata trovata e ha prodotto effetti, è stata quella di sostituire materiali preziosi con materiali più economici, fare magari lo stesso capo, quindi non si tratta tanto di tagli più semplici o di soluzioni, diciamo, di architettura vestimentare più semplici, quanto di utilizzare materiali più economici. Se lei pensa, per esempio, soprattutto durante l'autarchia, appunto 35-36, e poi sto parlando dell'Italia, durante la guerra, materiali alternativi rispetto a quelli più preziosi, uno per tutti, la seta, quindi vennero utilizzati materiali ricavati da altre fibre tessili, il sughero, tutta una serie di materiali, insomma, più economici, disponibili in Italia, che venivano utilizzati come materiali sostitutivi di più preziosi. Quindi questa è l'esperienza, quello che l'esperienza storica, diciamo, ci dice come soluzione, come risposta alla crisi. Oggi mi sembra che questo non sia il problema, cioè il materiale, ormai la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai materiali ci offre di tutto, di più, quindi probabilmente la soluzione è nel reperire accorgimenti dal punto di vista dell'organizzazione produttiva, della distribuzione, che consentano di ridurre i costi finali per il consumatore. Quindi lei dice comunque una cosa sicuramente industriale, che oramai non ha più nulla di artigianale. Assolutamente, l'artigianato costa moltissimo. La signora di Roma, prima, che raccontava la sua esperienza veramente molto interessante di cucito, certamente quella di tornare, come che diceva lei stessa, a lavorare a maglio oppure a fare le cose in casa è interessante e divertente, però l'artigianato, il su misura, il fatto a mano attualmente si colloca nell'alto della gamma. È il massimo del lusso avere un abito, un capo d'abbigliamento fatto su misura, tant'è che anche catene di abito confezionato importanti in molte grandi città hanno aperto degli angoli in cui offrono ai loro clienti il su misura, il fatto a mano, il rifinito personalmente. Diciamo che forse questo c'è per le camicie degli uomini, no? E gli abiti maschili alle volte. Sì, no, certo. Ecco, ma anche di capispalla, eh. Sì, diciamo che ecco, ci sono l'abito maschile generalmente ancora fatto a mano, no? E certo, anche la camicia, perché poi ogni uomo ha un collo diverso rispetto alle braccia, certo. E da lì non si scappa, mentre per le donne ovviamente il discorso è diverso, anche perché anche sulle taglie, se una persona ha delle taglie forti si può andare in un negozio dove ci sono appositamente, no, delle linee stilistiche per donne in sovrappeso, per esempio. Quindi oramai una delle ragioni per cui le donne in tutto il mondo, diciamo, nell'economia occidentale hanno smesso o disimparato di cucire o lavorare a maglia è che ormai le donne quasi ovunque lavorano e lavorano a tempo pieno, quindi non hanno proprio il tempo materiale, anche ci fosse la volontà e l'abilità, come si diceva prima. E l'abilità almeno non è detta. Lei, Giulia, animatrice degli appuntamenti di Invito al Cucito presso il negozio Bomba al centro di Roma, anche una persona completamente negata, viene da lei, diventa una sorella materassi, no? No, non credo, però credo che cioè, è sicuramente vero che magari le donne di oggi non hanno il tempo di dedicarci, sì, e di diventare più brave. Però magari si può imparare a fare delle riparazioni che sono utili, ecco, esatto, forse modificarsi delle cose che si hanno già, oppure sì, provare a fare una sciarpa, insomma, credo che le donne che sono venute erano entusiaste, erano tutte donne anche con lavori importanti e, insomma, bisogna anche passare quella paura, credo. Quindi la tipologia non è quella lì di una donna che sta a casa e dice adesso un attimo rivolto il mio paltò, no. Come si faceva in tempi di guerra, no? Quando si prendeva e si rovesciava il paltò. No, sono donne che lavorano, quindi donne che... Sono donne che lavorano, che spesso nemmeno magari si fermano all'idea anche, no? Di dedicarsi, sì. E invece secondo me è una cosa che ha molto valore e che fa anche molto bene, perché funziona anche come una specie di meditazione, cioè fare le cose a mano, cucire o fare la maglia o ricamare, è proprio una cosa un po', sì, una specie... esercizio zen, come molto. Il giardino zen, sì, adesso che tutto ti stressa, non so, in città, il lavoro, la macchina, le cose, lei lancia la cucitoterapia. Ma sì, esatto, si possono fare cose bellissime che avranno sempre più valore adesso che tutto viene fatto in quantità classificata. Allora, io volevo dire a Valeria Morra, stilista tra le fondatrici di Etic, una delle accuse che si fa alla moda in generale è il problema delle taglie, no? Entriamo dentro il negozio e mannaggia, allora, una 42 oramai è una 40, una 44 è diventata una 42, la donna media italiana mi sembra che sia tra la 42 e la 44. Però basta che sia un pochino più alta, è facile arrivare alla 46. Perché c'è questa avversione verso le taglie un po' forti? No, allora, non si tratta di avversione. Innanzitutto questo tipo di appunto credo sulla nostra linea non si possa fare, perché comunque noi abbiamo delle taglie sempre un po' comode, proprio pensando a questo, insomma. Ma è proprio un problema in questo caso è sempre industriale, perché un'azienda insomma riesce a lavorare su quattro taglie generalmente, dalla 40 alla 46 o viceversa, su cinque taglie quando si inserisce anche la 38, e quello crea chiaramente dei problemi produttivi, di multipli di produzione che diventano difficili poi da gestire, e quindi la scelta è sempre di carattere industriale in questo senso. Ma insomma la vostra large, per dire... No, la nostra è large vera, è vera, che, vera. Che taglia è? Parliamoci chiaro. No, è una vera 46 realmente. Cioè una vera, la large, quindi oltre la 46... Oltre la 46 non c'è più, si entra nelle grandi taglie. Sì, dalla 48 in effetti la definizione è quella di taglie grandi, ma lei comunque ha sollevato un problema che è veramente molto importante, perché c'è moltissimo mercato sopra la taglia 44, e però incredibilmente pochissime aziende che sono interessate a coprire questo mercato, anche di donne molto giovani, insomma, che avrebbero anche il piacere, insomma, di vestire alla moda. E quindi potrebbe essere uno spunto per magari lanciare una nuova collezione per aiutare anche le donne che amano la buona tavola, diciamo. Sì, allora, sì. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla Quota Rosa, @radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.